GR24, il sole 24 ore. Vice ministri e sottosegretari, siamo una squadra snella e forte, dice Monti, e non ci saranno conflitti di interesse. Borse su dopo l'asta del tesoro, collocati 7,5 miliardi di BTP, tiene la domanda, ma rendimenti al top dal 96. Breivik non è responsabile della strage di Oslo, secondo gli psichiatri non era in possesso delle sue facoltà mentali quando uccise 77 persone. Preferisco morire, il suicidio assistito in Svizzera di Lucio Magri, da tempo soffriva di depressione. Una buona giornata dalla redazione di GR24 e da Maria Piera Ceci. La squadra di governo dunque è ormai al completo. Stamattina il giuramento al Quirinale del nuovo ministro, dei viceministri e dei sottosegretari. Sentiremo fra poco le parole del Presidente del Consiglio, ma prima una notizia che arriva dalla Norvegia che farà molto discutere. Sentiamo Maria Luisa Pezzali. Buongiorno, Anders Breivik non può essere considerato penalmente responsabile della strage di Oslo del 22 luglio scorso. Morirono, lo ricorderete, 77 persone. Lo hanno stabilito gli psichiatri incaricati dal tribunale di effettuare una perizia sulle capacità mentali dell'uomo. I media norvegesi riferiscono appunto che i periti del tribunale hanno stabilito che l'uomo non era in possesso delle sue facoltà mentali al momento dei fatti, incapace di intendere e di volere, dunque, così diciamo nel nostro ordinamento. Detenuto nel carcere di massima sicurezza di Ila, vicino ad Oslo, il 32enne estremista di destra qualche giorno fa era comparso per la prima volta in aula davanti ai genitori delle vittime, aveva ammesso la strage ma si era rifiutato di dichiararsi colpevole, definendosi un comandante militare del movimento di resistenza norvegese. Queste le sue parole e dei cavalieri templari della Norvegia. L'inizio del processo, siamo ancora alle fasi preliminari, è previsto per la prossima primavera. È tutto. Grazie Maria Luisa Pezzali. Ed ora torniamo alla politica e al giuramento questa mattina al Quirinale dei nuovi sottosegretari. In diretta Alessandra Schepisi. Sì, buongiorno. Aiuterà l'Italia ad uscire dalla crisi e le forze politiche a riconciliarsi con l'opinione pubblica. Così il Presidente del Consiglio Mario Monti parla della squadra di governo finalmente al completo. Oggi infatti hanno giurato i 28 sottosegretari e viceministri che mancavano all'appello, numeri ridotti rispetto al governo precedente in cui se ne contavano 40. Una compagine snella e forte che lavorerà al servizio del Paese, ha assicurato Monti, ma sentiamo la sua voce. Stiamo attenti prima di parlare di conflitti di interesse, noi saremo di una trasparenza totale, ma essersi dedicati in passato ad attività nella società civile, nelle istituzioni e nell'economia e accettare adesso un impegno di governo significa, a mio giudizio, una disponibilità generosa e non il trascinare con sé esperienze sì, ma interessi del passato certamente no. Tra i nomi che spiccano, Vittorio Grilli, vice ministro all'economia, che sarà sempre presente alle sedute del Consiglio dei Ministri. All'economia nominati anche due sottosegretari, Vieri Ceriano e Gianfranco Polillo. Sentiamo quest'ultimo al termine della cerimonia. Come ha detto il Presidente, siamo una squadra, nei limiti delle nostre modeste possibilità cercheremo di fare il possibile. Noi ce la mettiamo tutta, poi dovrete giudicare voi, insomma. Ci sono due problemi, la qualità tecnica dei provvedimenti da prendere e un coinvolgimento della società in un progetto di rinnovamento del Paese. Quanto alle accuse di tempi lunghi per le nomine, Monti ha spiegato che, a differenza dei politici per i quali l'accettazione fa parte dell'iter normale di carriera, per i cosiddetti tecnici comporta a volte delle rinunce a prospettive di carriera o a trattamenti economici superiori, dunque spesso è stata necessaria una lunga opera di convincimento. Sentiamo se è stato così anche per Salvatore Mazzamuto, neo sottosegretario alla giustizia. Non lo so esattamente se me l'aspettavo o non me l'aspettavo, era nell'aria, non mi ha dovuto pregare. Perché in qualche modo mi sentivo impegnato, ove mi avessero chiamato, a continuare un lavoro nella giustizia. Io sono stato al CSM, sono stato consigliere del ministro della giustizia, insomma la mia è una storia risalente. E c'è un rapporto costruttivo con le forze politiche, ha spiegato infine Monti, forze politiche che sino a poco fa hanno vissuto in perenne dissenso su tutto e per questo apprezziamo il loro sforzo. Da Roma è tutto. Grazie ad Alessandra Schepisi. Trovata la quadra dunque sulla compagine di governo, oggi per Monti comincia una nuova prova europea. Vincenzo Miglietta. Sì, buongiorno, un'agenda quella di Monti fitta di impegni. Prima dell'inizio dei lavori dell'Eurogruppo fissato per le 17 il Premier avrà colloqui bilaterali con il collega lussemburghese presidente dell'Eurogruppo Jean-Claude Juncker. A Monti spetterà poi il compito di presentare ai colleghi il programma del suo governo, l'insieme di misure che l'esecutivo andrà a varare il prossimo 5 dicembre, interventi all'insegna del rigore, dell'equità e dello sviluppo, ha ricordato più volte il Premier, il rigore e l'equità attraverso l'ulteriore accelerazione della riforma del sistema previdenziale, il ritorno graduale dell'ICI sulla prima casa, la mini patrimoniale, l'ulteriore stretta sulla lotta all'evasione fiscale, lo sviluppo e la crescita puntando sul taglio del costo del lavoro, sulle liberalizzazioni, su meno Stato nell'economia, misure che in linea generale Monti ha già illustrato ai rappresentanti europei, da ultimo al vicepresidente della Commissione europea e commissario agli affari economici Olli Rehn. Proprio quest'ultimo oggi sempre nell'Eurogruppo farà una relazione sulla situazione del nostro Paese. Rehn di fatto insisterà sulla necessità che si intervenga prontamente con misure per 11 miliardi di euro, che l'Italia risolva quindi problemi storici quali il debito e la cronica incapacità di crescere in maniera sensibile. Frutto quest'ultima negatività, secondo Rehn, di almeno un decennio di mancanza di riforme strutturali, poi un'indicazione precisa, no alla rivalutazione delle pensioni qualora il PIL andasse in segno negativo. E da Roma è tutto. Grazie Vincenzo Miglietta. Bene, oggi le borse, dopo il collocamento con successo di titoli di Stato. Il punto con Deborah Rosciani. Devo subito smentirti, Piera, perché per la verità stamattina c'è un atteggiamento piuttosto ondivago per quello che riguarda le borse del vecchio continente. Dopo i rialzi di ieri molto forti, le borse stamattina erano partite con il segno meno, poi hanno recuperato tutto, sono arrivate a guadagnare oltre un punto percentuale. Adesso di nuovo è giù. Milano poco fa era di nuovo in negativo, adesso è sulla parità il FTSE MIB, mentre sono moderatamente positive le altre piazze europee. Londra più 0,4%, Francoforte più 0,16%, Parigi più 0,35%. Sotto i riflettori sempre l'atteggiamento delle agenzie di rating, che peraltro poco fa si è preso una delle tante. Moody's ha persino tagliato l'outlook per la prima volta da stabile a negativo delle società di telecomunicazioni europee, quindi dopo le banche adesso si comincia a prendere di mira anche altri comparti. Dicevamo Milano sotto osservazione anche perché oggi c'è stata un'altra importante appuntamento con il Tesoro italiano, ci sono state due aste per BTP a 3 e 10 anni, i BTP a 3 anni sono stati collocati 3 miliardi e mezzo, i decennali 2 miliardi e mezzo, ma gli investitori continuano ad essere sempre più esigenti. Per il titolo triennale il rendimento è arrivato al 7,89%, ai massimi dal settembre 96, per il titolo decennale siamo al 7,56%, ai massimi dall'aprile 97. Lo spread, il differenziale di rendimento fra BTP e Bund, stamattina era ritornato intorno ai 520 punti base, dopo quest'asta è sceso a 492, adesso riflerta di nuovo sui 500 punti, con i 500 punti base, e sul mercato secondario il rendimento del titolo decennale è intorno al 7,34%. Il fermento non manca, per ora è tutto. Grazie a Deborah Rosciani. Notizia di poco fa, sembrava il solito falso allarme, invece era un ordigno, il pacco sospetto trovato a Roma in via Aiaccio. Gli artificieri dei carabinieri, dopo aver messo in sicurezza l'area, lo hanno fatto brillare. Il pacco era formato da due scatole sovrapposte, in una c'era della gelatina, nell'altra un detonatore con innesco. Non sono stati trovati biglietti di rivendicazioni. Arrestato il titolare della Eureco, la società di smaltimento rifiuti di Paderno Dugnano, nel Milanese, dove il 4 novembre 2010 morirono 4 operai e 3 rimasero gravemente ustionati. Omicidio colposo, traffico illecito di rifiuti e violazioni in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro sono le accuse. Al microfono di Katia Caramelli, Antonella Riunno, compagna di una delle vittime, Salvatore Catalano, e custode dell'azienda. Io lo speravo. Però vabbè, siccome mi ha chiamato mio figlio stamattina non è che ci credevo molto. E invece è arrivata, sì. Lì siamo andati a fuoco più di una volta, però questa volta non ce l'hanno fatta. Cioè c'erano stati anche altri incendi? Sì, sia a luglio che agosto ce ne sono stati parecchi, anche anni prima, diciamo. Sì, io ero la custode, abitavo là e adesso sono fuori, ma buttato subito fuori quando lui era in guardia grave. Non ho lavoro, sono a casa. E vabbè, vado avanti con la pensione perché alla bambina gli danno la pensione di suo padre perché io non ero sposata. E che cosa ricorda di quel 4 novembre? Nel primo momento sembrava una scossa di terremoto. Invece poi ci siamo resi conto che era il fuoco, però cioè io dentro di me dicevo è come le altre volte, spegne, no? Si spegne. Invece poi sono venuti i ragazzi fuori e mano a mano ti rendevi conto che non c'era più niente. Però diciamo che fino a che non vedevo mio marito non riuscivo a capire bene, perché di lui nessuno mi sapeva dire niente. L'ho saputo alle 5:30 che era anni, guarda, grave. La lotta allo smog nelle nostre città. A Milano si fermano solo i veicoli Euro 3, a Roma invece partono le targhe alterne. Complice l'aumento delle polveri sottili nell'aria dopo 3 anni, a Roma tornano le targhe alterne. Si comincia giovedì con quelle dispari, non potranno circolare dalle 9 alle 13 e dalle 16 alle 21 all'interno della cosiddetta fascia verde. Dal provvedimento saranno esentate le auto Euro 5, i motocicli Euro 3, i veicoli a GPL, metano, elettrici e ibridi. Se la concentrazione di sostanze inquinanti resterà sopra i livelli, il blocco proseguirà anche venerdì, quando toccherà alle targhe pari. È la prima volta che la giunta Alemanno dispone la circolazione a targhe alterne, divisi i romani. Penso che sia un provvedimento inutile, perché non è, secondo me non è questa la causa principale dell'inquinamento a Roma. Per me non è un problema, perché prendo il treno e uso i mezzi pubblici per spostarmi in città. Credo sia inutile, anche perché un provvedimento del genere non serve assolutamente a ristabilire la salubrità dell'aria a Roma. Giusto, perché così girano meno macchine, meno traffico, meno smog. In attesa delle targhe alterne, già da oggi intanto la circolazione sarà vietata fino alle 20:30 a tutti i mezzi più inquinanti Euro 0, Euro 1 e anche ai diesel Euro 2. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. Ancora un successo di ascolti per il più grande spettacolo dopo il weekend. Per la terza puntata, gli spettatori del Varietà di Fiorello ieri sera su Rai 1 sono stati oltre 11.700.000, con il 43,18% di share. Un passo del sempre gustoso monologo di Fiorello sulla crisi. Non ne possiamo più essere per crisi. L'Italia siamo noi quelli che faremo crollare l'Europa. Ma de che, dicono a Roma, de che in Spagna stanno peggio di noi? La corrida la stanno facendo con le pecore, la fanno la corrida ormai. Che cosa che siamo noi? Ma che cosa state dicendo? La Grecia, ormai la Grecia, lo yogurt è scaduto da anni. Pensare che noi italiani abbiamo prestato i soldi alla Grecia e qua non li rivedi. È come prestare i soldi a Baldini, come fai? Sta crisi, ma qua non ne possiamo più, non ne basta. Giurano vice ministri e sottosegretari, siamo una squadra snella e forte, dice Monti, e non ci saranno conflitti di interesse. Breivik non è responsabile della strage di Oslo, secondo gli psichiatri non era in possesso delle sue facoltà mentali quando uccise 77 persone. Sembrava il solito falso allarme, invece era un ordigno il pacco trovato a Roma, gli artificieri lo hanno fatto brillare. E ripartiamo da un argomento molto difficile, molto delicato, la scelta di Lucio Magri di morire. Giornalista e politico, fondatore del Manifesto, da tempo conviveva con una pesante depressione. Attraverso il suicidio assistito a Zurigo, Magri ha messo fine ai suoi giorni. In alcuni cantoni svizzeri il suicidio assistito, con la sola assistenza passiva del medico che prescrive il mix letale, è tollerata. Due le associazioni che se ne occupano, la Exit International e la Dignitas. Emilio Coveri, presidente di Exit Italia, associazione per il diritto ad una morte dignitosa, spiega il perché anche la depressione vada considerata come malattia tale da giustificare il suicidio assistito. Sentiamolo al microfono di Valeria De Rosa. Se potessi aiuterei tutti, senza distinguere una malattia di serie A o di serie B. Io non è passato sotto un discorso, per esempio, depressivo, anche grave in certi momenti. Ci sono delle malattie che sono spaventose. Spaventose come avere un tumore negli intestini o al pancreas o una SLA. Tanti dei nostri associati, 18 sono già stati su in Svizzera, hanno ottenuto la loro morte dignitosa. Una morte che, se non sopravveniva, avrebbero potuto continuare una vita tragica e senza più possibilità di guarigione. Sì, Presidente, dal suo discorso è come se non ci fossero regole. Beh, io attenzione, no, deve esserci una malattia grave, clinicamente accertata e senza più possibilità di guarigione. Quindi, nonostante si tratti di una malattia, la depressione, che non viene quasi mai definita come non curabile, Se lei mi dice io voglio il suicidio assistito perché mio fidanzato mi ha lasciato, oppure ho perso il lavoro, oppure ho dei problemi economici dovuti appunto al fatto che ho perso soldi in borsa, e no, questo qua mi dispiace, non puoi obbligare un medico a diventare un assassino. E la Svizzera rigetterà la tua domanda. Evidentemente i casi di depressione che sono stati accettati sono stati decisi come gravi. Non è che uno decida di attivare la procedura di suicidio assistito e domani mattina te la fanno. Calma, ci vuole il suo tempo, c'è il vaglio e soprattutto c'è una commissione medica. Anche perché, attenzione, se no ci vanno di mezzo i medici. In passato Dignitas è stata portata in causa da un tedesco, per tanto tempo avevano sospeso il discorso del suicidio assistito sui casi di depressioni forti, finché non uscirà la sentenza e ha dato ragione a Dignitas. Sono quei casi che bisogna prendere anche sempre con le molle. Le autorità italiane hanno chiesto una proroga di 2 mesi per rispondere alla lettera di messa in mora della Commissione europea sui rifiuti a Napoli. Bruxelles aveva fissato come scadenza ultima il 30 novembre. Sorpreso il vice sindaco di Napoli Tommaso Sodano, che a Radio 24 rivela il governo aveva spostato a venerdì prossimo il vertice per fare il punto sulla situazione. Lo ha intervistato Anna Migliorati. La prima convocazione era il 21 a Roma e il 29 a Bruxelles, poi col cambio governo è arrivata lo spostamento della riunione al 2 di dicembre a Roma, e non è ancora fissata quella di Bruxelles, ma insomma, avevamo dato per scontato che, avendo posticipato la riunione in Italia, fosse stato già fatto. Insomma, ora insomma, prendiamo questa notizia che invece solo oggi parte la richiesta. Sorpresi dunque che i tempi siano realmente di una scadenza alla mezzanotte di domani? Sì, perché sinceramente se mi arriva una convocazione dal governo, quindi non dal bar sotto il palazzo, insomma, che mi invita il giorno 2, presumo che chi mi convoca per il giorno 2 ha già provveduto a fare i passaggi dovuti, insomma, credo che, quindi l'importante è che adesso si risolva questo problema, che tra l'altro tiene bloccate anche un comune come Napoli, e vorremmo appunto essere in condizione di avere poi quelle risorse che invece restano bloccate a seguito dell'avvio della procedura di infrazione. Cioè. La nostra scuola media si conferma l'anello debole del nostro sistema di formazione. Insegnanti anziani e demotivati, didattica arretrata e studenti insoddisfatti. Questo è il quadro dipinto dal rapporto della Fondazione Agnelli. Altro dato importante, secondo noi molto grave, è proprio qui alle medie che la nostra società perde la battaglia dell'equità. Cioè è qui alle medie che i divari sociali iniziano a pesare e a segnare la vita scolastica dei ragazzi. Dunque, cosa fare? Le proposte della Fondazione Agnelli nelle parole del direttore Andrea Gavosto. La prima cosa è l'estensione del tempo scuola, soprattutto da un punto di vista di equità sociale. Allungare il tempo scuola, quindi diciamo arrivare a forme di tempo pieno, tenere aperte le scuole medie dalle 8 alle 4 del pomeriggio è fondamentale. Perché questo? Perché permette innanzitutto di intervenire con azioni di recupero proprio sui ragazzi più fragili, quelli che, come dicevamo prima, si staccano in negativo nel segmento delle medie. Secondo, consente di sperimentare modelli didattici più innovativi rispetto alla tradizionale lezione frontale. Terzo, consente di riorganizzare l'offerta della scuola media, concentrandosi su alcune materie fondamentali, italiano, matematica, scienze, lingua straniera, e invece magari offrendo al pomeriggio una serie di materie opzionali, ad esempio invece che fare le 2 ore di educazione fisica, pensare di fare vera attività sportiva nella palestra della scuola, invece di fare 1 ora di educazione musicale, fare costruire magari il complesso della scuola dove i ragazzi possono suonare insieme, e via discorrendo. Quindi rimodellare l'offerta formativa. Asili nido gratis per circa 250.000 bambini britannici al di sotto dei 2 anni. È una delle misure che saranno annunciate oggi dal cancelliere dello scacchiere, George Osborne, nel tradizionale discorso d'autunno sull'economia del paese. Il ministro delle Finanze di Londra è riuscito a destinare 650 milioni di sterline al piano di Early Education per garantire asili nido al 40% dei bambini al di sotto dei 2 anni e consentire così alla madre di poter tornare al lavoro. Ed ora il nostro quotidiano appuntamento sull'evasione fiscale. Il paese sommerso. Il paese sommerso. Storie di ordinaria evasione fiscale. Italia ci sono 370 tassisti che non hanno il taxi e 3.329 ristoranti che funzionano senza tavoli, sedie e cucina. Sembra incredibile, eppure dagli studi di settore analizzati dalla SOSE, la società partecipata dal Tesoro e da Banca Italia, emerge che 100.000 soggetti deducono gli ammortamenti per beni strumentali di cui però non dichiarano il possesso ai fini patrimoniali. Insomma, evadono e guadagnano con le deduzioni. E che dire del classico magazzino gonfiato? Si dichiara di avere il magazzino pieno, anche se non è così. Un metodo che permette di evadere l'IVA sulle vendite, di non far emergere tutto l'utile realizzato e a volte anche di non far figurare eventuali perdite. E così sulla carta ci sono panetterie, compagnotte e sfilatini fermi per 142 giorni, contro i 9 giorni di quelle normali. E officine meccaniche dove, sempre sulla carta, sono accatastati pneumatici per metri e metri di altezza, così tanti da riempire non solo il magazzino ma anche il corridoio, l'entrata, il bagno, muri di pneumatici, che basterebbe anche solo chiedersi come fanno a entrare in quell'officina. Valentina Furlanetto, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Braccio di ferro internazionale intorno alla crisi siriana. Mosca si schiera contro la linea UE-USA. What we have to do is systematically try and put the pressure on Syria. L'alto rappresentante UE per la politica estera, Catherine Ashton, sembra decisa a non mollare la presa sul regime siriano. Chiede una riunione urgente del Consiglio per i diritti umani dell'ONU. Considerata la gravità della situazione e l'urgenza di una risposta da parte della comunità internazionale, ha detto l'Ashton, l'Unione pretende una sessione speciale. E lo fa proprio mentre si prepara a varare un inasprimento delle sanzioni contro la Siria, concentrandosi ancora nel settore dell'energia, in vista di una nuova stretta sulla vendita di equipaggiamenti e tecnologie. Stati Uniti ed Europa insistono perché il governo siriano ponga fine immediatamente alle violenze e permetta l'entrata immediata di osservatori internazionali. Forte la pressione anche da parte della Turchia, alleato storico di Damasco, ora sostenitore esplicito dell'opposizione, che ha minacciato di tagliar fuori il paese dalle rotte commerciali regionali, chiudendo i posti di frontiera frequentati da migliaia di camion ogni giorno e aprendo così nuove rotte stradali attraverso l'Iraq. Intanto è la Russia ad alzare la voce in difesa del regime di Damasco. Basta ultimatum, ha detto a Mosca il ministro degli esteri Sergei Lavrov, che ha ribadito la posizione russa, secondo cui tra gli squadroni che reprimono sanguinosamente le proteste non ci sarebbero solo i governativi ma anche gruppi armati che alimentano disordini per conto di interessi stranieri. Gigi Donelli, Radio 24, Sole 24 Ore. E siamo al calcio. Giovanni Trapattoni guiderà la nazionale dell'Irlanda anche nelle qualificazioni a mondiali 2014. Il tecnico italiano ha sottoscritto con la Federcalcio irlandese un contratto che prolunga di quasi 2 anni quello attuale, in scadenza dopo l'europeo. E oggi il CDA della RAI potrebbe decidere il taglio dei finanziamenti alla storica trasmissione Novantesimo Minuto. La RAI sta per staccare la spina a Novantesimo Minuto, il leggendario programma calcistico. Addio allora ai nostri compagni di viaggio di tante domeniche pomeriggio, il verboso Luigi Necco da Napoli, il tenebroso Ferruccio Garda Verona, quel Marcello Giannini, detto anche il mostro di Firenze. Tenuti per mano da Paolo Valenti, hanno allietato tantissime domeniche, riuscendo a farci sorridere col loro teatrino anche quando perdeva la squadra del cuore. Non importava quello che dicevano, ma il come lo dicevano. Li si guardava come si guarda al circo la donna barbuta o il numero del trapezista. Ecco, adesso cade, ma se cadeva il mitico Tonino Carino da Ascoli erano solo gran risate. La decisione verrà presa oggi dal CDA della RAI perché lo spezzatino del campionato ha spezzettato anche Novantesimo Minuto, facendo perdere il suo motivo di esistere, sapere chi ha vinto e chi ha perso. Non si capisce però come mai, con tutti i fiaschi che si producono in RAI, la scure dell'austerità debba cadere proprio sul Novantesimo. È l'ennesimo autogol di un'azienda che perde il contatto col suo passato. Passato che, quando viene rivitalizzato, è anche il suo futuro, proprio come sta dimostrando Fiorello con il successo del suo varietà. Dario Ceccarelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E questo notiziario è stato curato e condotto da Maria Piera Ceci, in regia Roberto Scaltritti. Prossimo GR 24 alle 14. GR 24, Il Sole 24 Ore. Direttore Fabio Tamburini.